seppe amar, anche al suo coro si apprese, questo fabbro fatale della vita. Anche si accese a dei male che delizio e fa soffrir. Luce del cuore, fiammella eterna che il mondo è assieme stata adesso con lieto dolore e la pietà in te. Blanda è la luce che a notte scende, spolvora il sole.